e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Resto Radio Convento, domenica, o meglio, sabato 22 settembre, ma anche un po' domenica 23 settembre, perché sono le 3:07 minuti del mattino e stiamo quasi in chiusura di questa lunga serata ormai nottata. E però Resto Radio Convento è anche un po' lo spazio giusto per poter raccontare le proprie cose, potersi anche aprire dal punto di vista sentimentale, non poter, mi verrebbe da dire, quasi esternare quelli che sono i propri veri sentimenti. E abbiamo proprio qui due ragazzi, due persone che ci vogliono raccontare una storia, che lo vogliono fare davanti ai nostri microfoni e ci vogliono dire qualcosa di importante, per cui direi che non attendiamo oltre, diamo loro spazio e vediamo che succede. Ciao a tutti, io sono Roberto e volevo condividere con me questa scelta di vita che ho fatto. Con te da solo. Con voi. Con voi, Sono emozionato. Immagino, è un momento importante, io cerco di... voi in questo momento, perché non ho mai avuto il coraggio prima d'ora di dire quello che sto dicendo in pubblico. Io devo comunicare il mio grande amore per Giovanni, che ho qui al mio fianco. Eccomi qua. Il quale è stato l'unico che ha saputo capirmi fino in fondo ed interpretare i miei bisogni e le mie necessità. Quindi Giovanni, sei la mia vita, sei l'unico senso che io ho. E da 2 anni a questa parte la mia vita è... Quindi è un senso unico, essendo l'unico che hai, perché non è doppio. Sì, adesso vorrei che Giovanni, scusa, no, stavo emozionato dal fatto che stavo ascoltando i due discorsi. Beh, è un momento importante anche per me, perché comunque non è mai capitato in radio. Devo dire che è sempre stata una cosa inter nos. E devo dire che anch'io ho avuto un amore ovviamente corrispondente, profondo nei suoi confronti, però devo dire anche che siccome abbiamo una terza qua in studio, sì, effettivamente qui con noi c'è la zia Marianna, che devo dire che è stata l'unica che ci ha potuto rompere questo, non dico questo rapporto, però ci ha messo d'accordo per un punto di vista. E da un altro, diciamo, ha rotto qualcosa, però. Sì, però ha rotto sempre a fin di bene. E io vorrei proprio che Marianna, che è qui con noi, e raccontasse anche lei quella che è stata la nostra storia e la nostra vita fino ad oggi. Marianna, tu ci hai visto sotto forme diverse, però questa sera... Sì, perché io vi ho sempre visto crescere. Però non mi aspettavo che questi due formetti alla fine credessero nell'amore vero, nell'amore fra uomo e uomo. Però c'è da dire. Io veramente sono commosso, non so cosa dire, perché guarda. Sono parole toccanti, lo capisco. Toccantissime, devo dire una cosa. Che anche chi conduce la trasmissione, però. Dai Giovanni, lo sai che poi sono geloso. Mi ha appena fatto un gesto di rispetto. No. Questo no, era questo. Era un'altra cosa. Ah, ok. Scusa. Secondo me Alberto, se insistiamo noi due, potremmo anche farci. Ma Alberto o Roberto? Scusa, non ho capito. Roberto. No, io lo chiamo Alberto perché ormai. Ah, ok. Infatti no, anch'io avevo capito Roberto per quello. Come ho la Aero Emotion. Ho capito. Chiamo Alberto che mi viene meglio. No, però hai capito, cioè qua siamo tra due poli diversi, abbiamo una femmina e un grande uomo maschio. A questo punto zia è una serata decisiva. Zia Marianna per me è sempre stata una certezza. Io lascerei decidere la femmina, che è l'unica donna che ha la testa sana. Devo dire che è stata la prima alla quale quando ho capito che la mia vita avrei voluto passarla con te, Giovanni, è stata la prima alla quale sono andato a confessare questo mio desiderio, e devo dire che mi ha accolto subito e mi ha aiutato per essere accettato anche nella mia famiglia. Io però ti lancio una sfida, Alberto. Roberto. Io detto chiamo, Alberto. Io chiamo Alberto. No, beh, io lo ricordo per gli ascoltatori, perché non vorrei mai che ci fosse uno scambio di identità. Io ho la R moscia soprattutto sulle prime parole, sulle prime lettere, quindi. Però io lo chiamo Alberto. Io voglio lanciarti una sfida. Adesso, qua in diretta, davanti a al mondo web. No, mettete le cuffie, scusi, dai. Sì, chi dovresti scusa. Scegliere tra noi due? Anzi, tra noi tre. Allora, Diego. Questa sera mi hai un po' rotto il cuore, però anche. E tu lo sai che io ho sempre fatto fatica ad esternare i miei sentimenti più profondi. Ah scusa, ma a te piace la Giorgia, sì o no? E tu sai che la Giorgia... Chi è la Giorgia? Giorgia è un nome d'arte. È una mia storia... Per nascondere il vero nome... È una mia storia e ringrazio Diego che cerca di proteggere un po' la mia sensibilità. E chi è Diego, scusa? Troppi nomi in sta vicenda. Diego sono io, però mi... Lui è Alberto e lei è Giorgia. Ah, ok. Vediamo i nostri. Sì, sì. Quindi abbiamo due lui, un Alberto, un Diego e una Giorgia che è una lei. Va bene, dai, noi avevamo appunto cercato di utilizzare nomi falsi perché eravamo un po' in difficoltà. Vabbè, non c'è riuscito, non siamo del mestiere. Nel mostrarci davanti a tutti, ma facciamo outing senza paura e senza pudore. Ok, quindi Diego, tu lo sai bene che io. Nella mia vita ho avuto delle vicissitudini difficili, ho avuto Giorgia che è stata molto importante nella mia vita, però anche Giorgia, per me. Giorgia è acqua passata no, per me no. E per me Giorgia è stata colei che mi ha fatto capire che io voglio stare tutta la vita con sempre Giorgia. Solo con te Diego. E io voglio stare tutta la vita sempre solo con Giorgia, come la mettevo? Adesso è un bel problema, è un bel problema. O fate testa e croce? Ma se facciamo Alberto che magari ti rivedi e facciamo tutti e due la stessa cosa con lei. Io avrei una soluzione. Ci ama tutte e due, non so se si può dire in radio perché faccio confusione tra le regole che bisogna rispettare di là e quelle che bisogna rispettare di qua. Però io proporrei un menage a trois a questo punto che magari ci riappacifica un po' tutti. Ma io guarda. Ho capito, però non vorrei mai rovinare questo. Giorgia delle belle amiche. Questo sentimento. Vabbè, sulle amiche, questa è una, vedi, ad esempio. Non sarei mica sposato. No, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Non si può lavorare al convento da sposati, ragazzi. Esatto, vedi. No, è proprio fa parte del colloquio, cioè nel senso nel contratto di lavoro è scritto che tu non ti sposi finché lavori qui. Sì, se no non prenderesti 3.500 euro classici almeno. Esatto, ma al giorno, alla sera. Io comunque faccio un appello a tutte le ragazze che ci ascoltano, che non sanno dove andare a fare l'addio al nubilato. Venite qui al convento perché c'è lo speaker che è qui alla mia destra. Si fa un mazzo tanto sera. Ma a parte quello è uno strafigo ragazze sì. E appena lui stacca vi fa godere e vi fa impazzire come non vi è mai e successo nella vita. Tutto il resto ti fa fare un giro gratuito in Vespa. Che fenomenale. Comunque ragazzi, se volete dare un occhio alla società dove viviamo, guardate qua. Non so come mai sia una fregata qui questo discorso, ma bene. Guardate la società dove viviamo, guardatela. Fuori dalle vetrate, vedete esattamente quello che succede nel mondo, vedo. È un po' di tutto, no? È quello che è quello che. No. Tutti che cercano tutti di sposarsi, che cercano. Tutti che cercano quella di che cercare. È quella che ti aggrada, bravo, quella Diego. Che ti aspetta fuori bravo. Il drink. È un po' la fauna sociale che abbiamo. Tu che ne sei tanto. Vai Giorgia. Però si fanno nuove amicizie. È giusto, questo è bello cosa, del nostro, è il bello del nostro locale, del nostro, della nostra location. Mi spiace dovervi riprendere all'ordine, ma richiedono la Giorgia perché deve andare. La sorella dello sposo della Giorgia la richiede. E quindi noi dobbiamo ricordarci anche di questi impegni e vi ringraziamo per aver creato questo bel momento di verità, perché la verità ci vuole in questo mondo di plastica e invece noi creiamo verità. In questo mondo di smartphone, brava, noi manteniamo rapporti umani e facciamo sì che la voce e gli sguardi parlino per noi, per quelli che veramente siamo. E quindi grazie ragazzi per questo momento così reale e così vero e vi auguriamo una buona serata e una buona vita dopo queste... Sarebbe fare il tuo lavoro. Sì? Beh... Potresti provare, magari. Però sei molto più preparato. Sposarti, però non devi sposarti. Non devi esatto. Nel contratto non ti devi sposare. Allora, grazie mille, ragazzi. Buonanotte, grazie per aver giocato con noi. Ciao. Buonanotte.